figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Bentrovati da Valentina Furlanetto. Nazarin ha 25 anni e vive in Pakistan. Quando era poco più che una bambina, a 15 anni, un pretendente rifiutato le gettò sul viso dell'acido, deturpandola e rendendola cieca per sempre. In Pakistan, ma anche in Bangladesh e in Nepal, è una pratica purtroppo molto diffusa nella quale può incorrere una donna se rifiuta una proposta di matrimonio oppure se chiede il divorzio. Ne parliamo oggi in occasione della conferenza internazionale sulla violenza contro le donne. Nazarin è una delle ragazze aiutate dall'associazione Smile Again, che si occupa proprio di riportare il sorriso sui volti sfregiati delle donne vittime di violenza. Sono pratiche che anche in Italia venivano utilizzate fino a pochi anni fa. La presidente Clarice Felli. Anche noi più di 50 anni fa avevamo lo stesso problema, non era l'acido ma era il vetriolo. Questo soprattutto nel sud dell'Italia, nel dopoguerra. E dal sfregio il vetriolo si è passato allo sfregio del coltello. L'associazione nasce nel 2000, di cosa si occupa? Noi ci occupiamo, inizialmente abbiamo puntato tutto sulla chirurgia ricostruttiva, interventi per dare a queste ragazze la funzionalità del loro viso. L'età è dai 15 ai 20 anni, 20-22, vengono colpite soprattutto al viso proprio per deturparle, quindi non renderle più accettabili da nessuno. Ovviamente io e la signora Massarate, che è la presidente della Smile Again in Pakistan, ci siamo posti il problema del dopo, che forse è il progetto quello più faticoso, quello di reinserire queste donne in un sistema sociale, farle capire cosa significa autonomia, quindi puntare tutto sull'istruzione per loro, per i bambini. E a questo scopo noi stiamo realizzando, grazie al governo italiano e agli aiuti pakistani e anche internazionali, un centro di riabilitazione con annesso ospedale a Multan. In Pakistan? In Pakistan, sì. Quante donne avete aiutato in questi anni? Il problema di queste ragazze è proprio questo, che sono violentate due volte. Una volta da chi le tira l'acido e una volta purtroppo dal tipo di interventi che si fanno. Per ogni ragazza ha bisogno di 30-40 interventi. Quindi lei può immaginare quanto è lungo il percorso e quanti pochi numeri possiamo dare, no, di visibilità. Dall'inizio dell'anno noi abbiamo terminato 83 ragazze. Lei mi raccontava questa storia di Nazarin, che ha 25 anni ed è non vedente. È completamente non vedente. E lei appunto vuole studiare per essere autonoma, libera, e l'appello che io faccio che l'Unione Italiana Ciechi ospitasse Nazarin per continuare questo percorso che l'Aquila molto gentilmente aveva iniziato. Poi ovviamente adesso hanno altri problemi che non... Però ha iniziato questo percorso, lei ha iniziato, immagine che era completamente analfabeta, quindi con l'Unione Italiana Ciechi dell'Aquila ha iniziato anche a utilizzare il computer. Proprio per i non vedenti, quindi è stato un bel percorso e vorrei che continuasse aspettando che nel frattempo io trovi finanziamenti per aprire una scuola lì. È tutto, domani.